Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nel fine settimana di ottobre chiuderemo tutto alle 22. È il fine settimana di Halloween. Questa immensa idiozia, questa immensa stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro paese. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è chiaro che al presidente della regione Campania De Luca la festa di Halloween non piaccia neanche un po'. E sapete che poi da ieri ha emesso questa nuova ordinanza restrittiva per quanto riguarda la Campania, che effettivamente ha dei contagi che crescono man mano. Un'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole e delle università, ordinanza e chiusura per la quale oggi molti genitori, soprattutto mamme, hanno manifestato davanti alle scuole perché contrariate da questa decisione, come estremamente contrariata in questi giorni, cioè da ieri, in queste ore, la ministra dell'istruzione Azzolina. C'è questa polemica a distanza tra De Luca e la ministra Azzolina su questa decisione che lei ha definito gravissima e inopportuna. Però altre regioni stanno valutando delle misure più restrittive rispetto al DPCM, al decreto del Presidente del Consiglio, la Lombardia in testa. Ne parleremo anche con l'assessore ai trasporti di Milano Granelli, che ci sarà stasera, per capire anche questo nodo dei trasporti pubblici locali che De Luca ha deciso così, di non far andare i ragazzi a scuola in modo che i mezzi pubblici siano decongestionati. Bisogna vedere che cosa si decide in Lombardia. Già ci sono arrivate varie anticipazioni, ma entro stasera la Lombardia, tra stasera e domani, dovrebbe prendere appunto delle decisioni. Anche il governo stesso a livello nazionale sta valutando dei provvedimenti un po' più stringenti, perché purtroppo i contagi crescono di giorno in giorno. Poi ci collegheremo con Parigi perché c'è stato un nuovo attacco terroristico, un professore di storia che è stato decapitato, e poi la sentenza che è arrivata per Pamela, la ragazza romana che macerata nel 2018 fu uccisa e fatta a pezzi, vi ricordate? E poi cerchiamo di alleggerire un po', sentendo se dal meteo arrivano almeno buone notizie. 349-238-6666, ve lo ricordo, il numero per i vostri WhatsApp, 349-238-6666, oppure come sempre i vostri commenti sui fatti principali della giornata li potete scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso partiamo con la sintesi della giornata. L'andamento del Covid in Italia: sono 10.000 i nuovi positivi oggi e il governo pensa a nuove misure. Si va verso il coprifuoco alle 22. Le ordinanze delle regioni: dopo l'ordinanza di ieri che chiude scuole e università in Campania, De Luca annuncia che resterà tutto chiuso in occasione di Halloween. Continua la polemica a distanza con la ministra Azzolina, intanto in arrivo nuove regole anche in Lombardia. Economia italiana: ci vorranno 2 anni perché ritorni ai livelli pre-Covid, sottolinea il governatore di Banca Italia Visco. Francia: decapitato un professore vicino Parigi, aveva mostrato in classe le vignette su Maometto, ucciso l'aggressore che aveva 18 anni. L'omicidio di Pamela: confermato l'ergastolo in appello per il pusher nigeriano Osegale. Cinema: la festa di Roma, arriva il film sul giovanissimo David Bowie alle prese con un disastroso tour negli Stati Uniti. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Raggiungono quota 10.000 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute si sono registrati 10.010 casi. Ieri erano 8.804. I tamponi sono stati 150.377. I decessi oggi 55, in calo rispetto agli 83 di ieri. Prosegue quindi la recrudescenza di Covid in Italia, al punto che il governo pensa a una nuova stretta da varare entro il fine settimana. Il Partito Democratico chiede un vertice per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, d'intesa con le regioni e per evitare un futuro e drammatico nuovo lockdown. Il ministro dell'Università Manfredi intanto spiega che nella giornata di domani si lavorerà per valutare la necessità di possibili nuovi interventi. All'opposizione, il leader della Lega Salvini dice che richiudere tutto sarebbe un disastro. Si attende dunque il nuovo DPCM, ma anche le regioni stanno emanando ordinanze con ulteriori misure anticontagio. In Lombardia, appunto, fra stasera e domani è atteso il nuovo provvedimento. Prevederebbe didattica a distanza per le scuole superiori e distribuzione dell'inizio delle attività scolastiche, ma anche la sospensione delle attività con sport di contatto, anche dilettantistiche, senza sospendere gli allenamenti. Stop alle sale bingo, alle sale giochi, vietato il consumo di bevande sul suolo pubblico dopo una certa ora, e al governo si chiede di aumentare lo smart working. Dopo comunque ci sarà spazio di parlare in specifico anche proprio della situazione di Milano. Dalla Lombardia alla Campania, anche qui contagi che aumentano e provvedimenti in arrivo ancora più restrittivi dopo la chiusura di tutte le scuole fino al 30 ottobre. Se impugnare la decisione del governatore De Luca deciderà il governo, dice la ministra dell'istruzione Azzolina. Parla di scelte necessarie in una lunga diretta Facebook il governatore della Campania De Luca, spiegando i motivi della tanto contestata ultima ordinanza che sospende tra l'altro le attività scolastiche in presenza. Il pericolo sarebbe dovuto agli assembramenti che si creano all'entrata e all'uscita delle scuole. Ma la ministra Azzolina non condivide e risponde che oggi gli studenti campani erano nei centri commerciali, che non sono di certo più sicuri delle scuole, e anzi difende gli istituti definendoli più sicuri di altri luoghi del paese. Intanto il governatore assicura un altro piano di sostegno socio-economico, ma annuncia anche altre misure, soprattutto per i fine settimana e in vista di Halloween. Noi chiuderemo tutto alle 22, siccome noi dobbiamo fare i conti con la realtà e siccome sento che si stanno già preparando a fare le feste. Si chiude tutto e sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità. Laura Vigiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli. Quindi scuole chiuse in Campania, un dibattito quello sulla chiusura delle scuole che prosegue. La CISL Scuola chiede che il governo metta in campo tutte le forze, dalla protezione civile per fare tamponi rapidi ai mezzi di trasporto dell'esercito per portare i ragazzi a scuola. Vedremo insomma nei prossimi giorni come prosegue questa evoluzione, questo dibattito tra trasporto pubblico locale e scuola. Intanto il Covid nel mondo, il numero dei contagi da coronavirus in tutto il mondo ha superato il tetto dei 39 milioni. Secondo quanto certifica la Johns Hopkins University, il dato mostra un aumento di 2 milioni di casi in appena una settimana. Le vittime sono quasi 1.100.000, circa 100.000 in più rispetto al tetto del milione raggiunto a fine settembre. E poi c'è l'OMS che lancia l'allarme per quanto riguarda l'Europa. La scorsa settimana il numero di casi di Covid-19 segnalati in Europa è stato quasi 3 volte superiore rispetto al primo picco di marzo, ha detto il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus nella consueta conferenza stampa sul coronavirus. Con l'avvicinarsi dell'inverno, ha detto, i casi stanno aumentando soprattutto in Europa, dove i paesi stanno espandendo le misure e molte persone sono comprensibilmente stanche del disagio che la pandemia sta causando le loro vite e i loro mezzi di sostentamento. Gli Stati Uniti poi hanno superato gli 8 milioni di casi confermati di coronavirus. E in Europa stanno scendendo in campo i giudici amministrativi contro le misure previste dai governi per frenare i contagi. A Berlino, in Germania, come a Tolosa in Francia, dove a qualche ora dall'inizio del coprifuoco il TAR ha sospeso l'ordinanza del prefetto della regione che ordinava la chiusura dei bar e imponeva misure restrittive ai ristoranti per 15 giorni. Accogliendo il ricorso, il giudice ha ritenuto che non è dimostrato che una chiusura totale sia necessaria, adatta e proporzionata alla situazione. Restiamo quindi in Francia, dove è stato decapitato oggi un professore di storia vicino Parigi. Aveva mostrato in classe le vignette su Maometto. L'aggressore è stato individuato e ucciso, aveva 18 anni, era nato a Mosca. Poi per avere ulteriori dettagli ci collegheremo direttamente con Parigi nel corso di questa puntata. Di nuovo in Italia per parlare di economia, non prima di 2 anni per il ritorno dell'economia italiana a uno stato pre-Covid, nella valutazione questa del governatore di Banca Italia Visco, che comunque non nasconde la difficoltà di previsioni del genere. Visco afferma che il risultato del PIL italiano, il prodotto interno lordo del terzo trimestre, che verrà diffuso a fine mese, sarà superiore alle stime. Il messaggio che arriva appunto da Banca Italia è che l'Italia deve ben utilizzare le risorse del Recovery Fund investendo su innovazione, tecnologia, educazione per superare gli ostacoli della crescita. E siamo alla cronaca con l'omicidio di Pamela Mastropietro. Sentenza ad Ancona per il delitto di Macerata. Dopo quasi 5 ore e mezza di camera di consiglio dei giudici, è stato confermato in appello l'ergastolo per il pusher nigeriano Osegale. E poi nel corso della puntata ci sarà modo di ripercorrere questa terribile vicenda. A Cosenza oggi si sono tenuti i funerali della presidente della regione Calabria Iole Santelli, morta a 51 anni. Un grande dolore per una grande donna, le parole della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Per chiudere il cinema, la festa del cinema di Roma, la proiezione di Stardust, un film biografico su un periodo quasi sconosciuto della vita di una grandissima rockstar. Un giovanissimo David Bowie, quello degli esordi, è quello che arriva sul grande schermo in Stardust, il film di Gabriel Range con il musicista Johnny Flynn, che interpreta il futuro genio musicale quando a 24 anni fa il suo primo disastroso tour in America. Tony said Mercury had doubts about the record. Wavell's got doubts, you know, that's all, clearly. But I don't. You don't? No. Alla festa di Roma è stato presentato da regista e protagonista. È una lettera d'amore a Bowie, scritta in assoluto rispetto, hanno detto. La famiglia, ha sostenuto il regista, non ha visto il film né lo ha approvato, perché il figlio ha spiegato che non accettava opere sul padre. Non ci sono canzoni, ma certo è il racconto dei tempi anteriori ai successi di Bowie. Si raccontano invece gli incubi dell'aspirante rockstar, i suoi passi incerti con i media e lo scetticismo, salvo rare eccezioni dei suoi stessi discografici. Il film ha già una distribuzione italiana, quella di I Wonder Pictures. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo si chiude questa prima parte della puntata, la sintesi della giornata, in modo che tra poco, dopo aver aggiornato chi sta viaggiando, possiamo cominciare ad approfondire alcuni temi in primo piano. Per i vostri messaggi, WhatsApp, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238, che è il numero per 349-238-6666, ho dimenticato un pezzo, che è il numero per i vostri WhatsApp. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchissimi di notizie, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata e poi tutti gli approfondimenti con gli ospiti. A partire da ora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp 349-238-6666. Chiede un ascoltatore: ma se è deceduta la presidente della regione Calabria, chi prenderà le misure anti-Covid? Beh, ovviamente provvederanno quanto prima, ma tra l'altro pensate che la Calabria credo che sia la regione con in assoluto i più bassi contagi in Italia. Poi invece c'è un altro ascoltatore che dice: certo, se chiudi la scuola un sedicenne non sta in casa tutto il giorno, chiaro, se non c'è il lockdown. Infatti è un po' questa la polemica con chi dice inutile chiudere le scuole, perché non è lì che si contagiano i ragazzi, ma poi è fuori. Comunque adesso cominciamo con il primo ospite. Abbiamo ritenuto poi di affrontare il problema della movida. Tutti propongono una riduzione delle condizioni stabilite dal DPCM. Dato che ci sono 2 o 3 proposte, sottoporremo queste 2 o 3 proposte al Comitato Tecnico Scientifico per avere una risposta. A parlare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Dopo l'incontro di oggi con i sindaci della Regione Lombardia in videoconferenza, ha parlato così riferendosi alla prossima ordinanza che potrebbe essere emanata tra questa sera e domani dalla Regione Lombardia. Per quanto riguarda appunto la Lombardia, che insieme alla Campania, la Val d'Aosta, è la regione che più desta preoccupazione in questa seconda ondata di coronavirus, vi raccontavo ieri invece della Campania, tarda sera, l'ordinanza emessa dal presidente della Regione Campania De Luca con la chiusura delle scuole. Quella principale, la misura, la chiusura delle scuole e dell'università, di cui parlavamo anche poco fa nella prima parte della trasmissione, con grande indignazione della ministra Azzolina e innesco di un forte dibattito politico sul tema. De Luca ha replicato: oggi le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamo le decisioni più forti, meglio è, così evitiamo poi cose e misure più pesanti, insomma di rimetterci, dice, di essere con l'acqua alla gola dopo. Dicevo che quindi anche in Lombardia si stanno valutando delle possibili misure restrittive, anche se non drammatiche, come ha precisato nel pomeriggio Fontana. Non sono drammatiche, non sono sicuramente cose che vadano ad impedire le attività, sono forse ridimensionamenti rispetto a quello contenuto nel DPCM. Quindi non drammatiche, ha detto, però crescono i positivi al coronavirus in Lombardia. La conseguenza potrebbe essere appunto una serie di interventi tra scuola, movida, trasporti. Anche qua possiamo sentire un passaggio del presidente Fontana. Cercare di ridurre le persone sul trasporto pubblico locale, questo è sicuramente stato un argomento sul quale si sono tutti quanti diffusi e tutti quanti ritengono in maniera assolutamente condivisa che sia necessario chiedere che si proceda ad una didattica a distanza non assoluta, assolutamente no, ma parziale. Comunque, in particolare, i nuovi positivi in Lombardia sono 2.419 con 30.587 tamponi effettuati, più della metà dei nuovi casi sono a Milano, dove ci sono 1.319 nuovi contagi, di cui 604 proprio a Milano città. Quindi Attilio Fontana diceva penseremo alla didattica a distanza, anche allo smart working e al trasporto locale. A proposito di trasporto locale, naturalmente una grande metropoli come Milano deve affrontare questo problema. Allora ne voglio parlare con l'assessore alla mobilità e lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli. Buonasera assessore. Buonasera. Finalmente ci siamo ritrovati, ieri l'avevo un po' persa nella nebbia, anche se nebbia ancora a Milano non c'è, ma comunque l'importante è ritrovarsi. Senta, allora in questi giorni appunto c'è questo tavolo di confronto serrato tra le regioni e gli enti locali, da una parte la ministra dei trasporti dall'altra, per trovare un provvedimento, un'intesa per decongestionare il trasporto pubblico locale, no? Ho fatto sentire in questi giorni, ci sono stati i presidi qui a Effetto Notte, c'è stato il presidente di Astra, associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, stanno cercando di trovare un'intesa. A Milano che cosa state pensando di fare? Ma intanto stiamo cercando di lavorare per potenziare il trasporto pubblico il più possibile, perché ci siano più opportunità. Per questo noi abbiamo in campo il 110%, cioè il 10% in più di mezzi rispetto al massimo dell'anno, che c'è in genere in novembre-dicembre. Quindi stiamo mettendo il massimo dei trasporti. E poi abbiamo acquistato, diciamo, un po' di attività, di possibilità di mezzi per integrare quelle corse dove c'è maggior bisogno, utilizzando anche bus turistici, cose di questo tipo che in questo momento non stanno lavorando. Quindi abbiamo primo potenziare il servizio. E poi mettere a disposizione tutte quelle attenzioni che servono, perché anche se usiamo il trasporto pubblico lo possiamo fare in sicurezza, igienizzanti, controllo sulle mascherine, abbiamo riattivato laddove possibile anche i servizi di controlleria, la presenza degli operatori, proprio perché tutti possano rispettare le regole, i cittadini lo stanno facendo, ma dobbiamo migliorare questo aspetto. E poi bisogna lavorare sugli orari, perché certamente la didattica a distanza può essere utile, ma abbiamo bisogno che i nostri giovani frequentino le scuole, abbiano momenti di relazione educativa, perché è fondamentale. Certo, negli ultimi anni delle superiori e università si può fare un po' di didattica a distanza, ma non possiamo tenere comunque chiusi, anche perché poi il rischio del contagio, a nostro parere, non viene tanto più in classe, ma poi quando i giovani escono dalla classe, sono in giro, e quindi su questo dobbiamo stare attenti. Dobbiamo diversificare gli orari, in parte è stato fatto, noi abbiamo lavorato con i dirigenti scolastici insieme con la città metropolitana, però dobbiamo investire di più e lavorare di più per diversificare gli orari, utilizzare le maggiori ore della giornata, questo anche col mondo dell'impiego privato e pubblico, anche noi come comune lo stiamo facendo, perché se riusciamo a distribuire meglio il carico sicuramente diminuiamo la compresenza delle persone sul trasporto pubblico. Quindi assessore Granelli, sono cose che state valutando ancora, cioè il potenziamento, diceva, del servizio pubblico locale, poi l'utilizzo di bus privati, che era anche una proposta per esempio degli stessi presidi, che dicevano, e anche di Astra, perché non utilizzate i pullman che una volta servivano, anche quelli di Gran Turismo che stanno soffrendo, no? La crisi del turismo. Certo. Ecco, quindi anche... Certo. Poi dopo c'è anche un tema di costi, per questo noi devo dire, col Ministero da tempo abbiamo chiesto, adesso sono arrivate un po' di risorse di questo tipo, perché poi tenere un servizio molto più ampio di quello che serve e avendo comunque una presenza sui mezzi pubblici che non arriva oltre il 55-60%, poi dopodiché vuol dire che bisogna trovare i soldi per farlo funzionare. Noi abbiamo un mancato introito oggi ormai di più di 300 milioni di euro nel solo a Milano città in quest'anno. Assessore, però le faccio sentire che cosa ha detto in questi giorni la ministra dei trasporti De Micheli a proposito dei fondi stanziati per le regioni. Con il decreto legge 111 del 2020 è stato autorizzato l'impiego di 300 milioni di euro del fondo destinato al sostegno del settore del TPL e regionale di passeggeri per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinato agli studenti, consentendo in tal modo alle regioni e agli enti locali di disporre delle risorse necessarie per l'individuazione degli operatori economici cui affidare l'effettuazione dei servizi aggiuntivi, per esempio i bus turistici, avvalendosi anche delle modalità semplificate delle gare di cui all'articolo 1 del decreto semplificazioni, quindi risorse e norme accelerate. E poi ha aggiunto che anche nella legge di bilancio ci saranno altre risorse. Gli stessi presidi hanno detto effettivamente questi soldi sono arrivati alle regioni per incentivare il trasporto pubblico locale, per una serie di altre cose, sono stati utilizzati come si deve, quindi ci sono queste risorse, Granelli, anche perché Milano, si sa, è la metropoli italiana, per cui se non si incentiva qui il trasporto pubblico locale. Queste risorse sono importanti, sono una parte di quelle che servono, perché ripeto, fino adesso a livello nazionale ne sono stati stanziati 900 di milioni, la ministra già quest'estate ha detto che il finanziario ce ne sono degli altri e questo è uno sforzo che il governo sta facendo molto utile. È stato suddiviso nelle regioni, le prime risorse stanno arrivando ora e noi comunque su questo, appunto, è da aprile che stiamo tenendo il servizio al 100%. E abbiamo già utilizzato quello che diceva la ministra, questi contratti li abbiamo già fatti proprio per avere questi bus e li stiamo utilizzando per potenziare il servizio. Non è una cosa che faremo, ma che abbiamo già in campo in questi giorni e che ulteriormente potenzieremo, ma ripeto, le risorse è bene che ci siano, ma sono una parte di quelle che purtroppo servono. Abbiamo chiesto che anche le regioni mettano risorse, non solo distribuiscono quelle nazionali, perché il trasporto pubblico sia all'altezza del servizio, e poi chiediamo anche ai cittadini, appunto, di diversificare e poi di utilizzare anche altre modalità di trasporto. Ad esempio, noi dobbiamo dire che a Milano i cittadini su questo hanno fatto delle scelte importanti. Oggi, ad esempio, in Corso Buenos Aires le biciclette sono il 20% dei veicoli utilizzati, un anno fa erano il 7-8%, e questo grazie al lavoro che ha fatto Milano. Noi abbiamo messo 35 chilometri di nuove ciclabili e i cittadini le stanno utilizzando, e quindi alcuni cittadini utilizzano la bicicletta, moto, e questo è molto utile. Infatti, anche se, Granelli, due cose: uno, adesso che arriva proprio il freddo sarà un po' più difficile che tutti vadano in bicicletta. In Corso Buenos Aires, diciamo, è stato meritevole l'idea di fare questa specie di corsia tra il parcheggio delle macchine e il marciapiede. È un po' congestionato, probabilmente non c'era altra soluzione, però Corso Buenos Aires, diciamo, c'è tutto un movimento tra macchine, pullman, moto, certo, biciclette. Non che prima si passasse via liscio. E poi, se più persone vanno in bici, chi deve per forza utilizzare l'auto avrà meno traffico, perché se tutti noi utilizziamo l'auto è chiaro che poi non ci stiamo. Noi siamo a Milano, ormai abbiamo lo stesso numero di auto che entrano in città dell'anno scorso e sta aumentando e diventano di più, quindi pur avendo, diciamo, meno persone in movimento, perché c'è ancora molto smart working, le auto ormai sono di più che entrano in città ogni giorno, e quindi bisogna anche che questo investimento, ad esempio i treni regionali, Trenord, lo dico con chiarezza e con forza, gestita dalla regione, non ha incentivato come abbiamo fatto noi a Milano. Cioè ieri in regione Trenord ha detto che ha il 7% in più soltanto di trasporto e alcuni treni sono stati cancellati che arrivano in città. È chiaro che dopo quelle persone scelgono la macchina e quindi poi intanto si congestiona mi dica una cosa, città. Granelli, però allora, tra le misure che diceva il presidente della regione Lombardia Fontana, che prevede un'ulteriore dose, diciamo così, di smart working, anche se il sindaco Sala su questa cosa aveva aperto un bel vespaio, no, nei mesi scorsi, dicendo basta, adesso si torna al lavoro come se chi era stato in smart working fino a quel momento non avesse lavorato, e lo dico da una che non ha mai fatto un giorno di smart working, sono sempre venuta in presenza al lavoro, quindi adesso si ripartirà tra le misure per Milano anche con lo smart working? Sicuramente lo smart working è utile, il lavoro a distanza. Non possiamo pensare di avere quote di lavoro a distanza eccessive, perché poi dobbiamo alcuni lavori, la gestione degli sportelli, la gestione dei servizi. In una città noi pensiamo a tutto il servizio di pulizia, del trasporto pubblico, della logistica, della gestione dei servizi sociali, dei servizi sanitari, e qui poi le persone ci vogliono, ma anche ad esempio la gestione dei lavori pubblici vuol dire la manutenzione delle strade, i lavori, tutte queste cose sono cose che non si possono fare in smart working a distanza. Ci sono attività sì, attività no. Senta, per chiudere, so che deve andare, assessore Granelli, lei prevede per tra questa sera e domani, no, col fatto che la Regione Lombardia annuncerà un'ordinanza più restrittiva delle misure, qualcosa in particolare per Milano? Ma io penso, da come ho capito, sarà trasversale in tutta la regione. Non penso che ci siano misure speciali per Milano. Certamente dovremmo tutti lavorare, e poi anche sul tema dei contagi bisogna che la sanità riesca a tracciare di più dove avvengono i contagi, non perché dobbiamo dare le colpe, ma perché dobbiamo lavorare in maniera mirata, cioè non possiamo pensare che se aumentano i contagi chiudiamo tutto, bisogna fare azioni mirate e per andare a individuare quelle situazioni, circoscrivere il più possibile da dove ci sono dei focolai. Penso che questo sia un qualcosa che la sanità deve fare di più. Grazie assessore Granelli, buon lavoro allora. Grazie. Grazie, buona serata. Ci fermiamo allora per questa pausa di riflessione e anche di respiro. 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp. Allora, dopo la morte della presidente della Calabria Iole Santelli, prende il suo posto intanto il vicepresidente Nino Spirlì, che qualche giorno fa aveva affermato l'intenzione di usare dei termini, diciamo, un po' particolari, negro e frocio finché vivo, ecco, un personaggio magari, diciamo, ben diverso da Iole Santelli, ma insomma poi vedranno in Calabria un po' come gestire la regione. Vi rimando a tra pochissimo. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto notte, non siate egoisti, ditelo anche ad amici, parenti, conoscenti, amori e anche soprattutto congiunti, ecco, visto che ritorna, diciamo, molto attuale questo termine. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666 invece il numero per i vostri WhatsApp, dove questo ascoltatore dice: perché non fate una bella critica al comitato tecnico scientifico? Finalmente hanno ridotto la quarantena e si sono adeguati alle linee guida dell'OMS. Ma in realtà l'OMS no, ha detto fino a ieri che i giorni dovevano essere 14, mentre adesso in Italia, con varie differenziazioni che ho spiegato in questi giorni, sono stati ridotti a 10, con un unico tampone da fare, se è negativo dopo 10 giorni si è liberi. Ma adesso ci spostiamo in Francia e ci colleghiamo con il nostro corrispondente Danilo Ceccarelli, che saluto. Ciao caro Danilo. Buonasera. Perché a poche ore dall'inizio del coprifuoco che aveva annunciato in questi giorni il presidente Macron, sempre appunto per le misure anti-Covid, è successa una cosa terribile in Francia, un nuovo attentato, siamo un attentato terroristico, no Danilo, di un professore di storia che è stato decapitato a nord-ovest di Parigi perché aveva mostrato in classe nei giorni scorsi le vignette che erano state di Maometto ripubblicate dalla rivista Charlie Hebdo. Esattamente, questo almeno secondo le prime informazioni che sono state pubblicate dai media. L'uomo è stato ucciso da un presunto assalitore, è stato abbattuto dalla polizia ad Eragny, un comune limitrofo a dove è avvenuto l'omicidio. L'aggressore è stato ritrovato poco dopo l'invenimento del cadavere con un coltello e una volta affermato dagli agenti avrebbe mostrato subito un atteggiamento aggressivo attaccando al grido di Allah Akbar. In questo una simile situazione i poliziotti sono stati costretti subito ad aprire il fuoco e ad uccidere l'aggressore, che aveva 18 anni, sempre secondo quanto riportato dai media che citano fonti della polizia, era originario di Mosca ed era sconosciuto ai servizi francesi. Il professore ucciso nei giorni scorsi, come giustamente detto, era stato oggetto di forti critiche da parte dei parenti, dei genitori, di alcuni studenti che si erano lamentati del fatto che durante un corso sulla libertà di espressione erano state mostrate le caricature di Maometto ripubblicate da Charlie Hebdo. Secondo il Figaro, annunciato pochi minuti fa, il professore era anche stato minacciato e aveva sporto denuncia. Il presidente Emmanuel Macron è arrivato sul posto poco fa, dove è stato ritrovato il cadavere dopo essere passato per la cellula di crisi del Ministero dell'Interno. Tutto questo succede, tra l'altro, dicevo Danilo, praticamente alla vigilia del coprifuoco che scatta domani, no? Quello annunciato da Macron per cercare di contrastare la recrudescenza molto forte che c'è in Francia di coronavirus. Quindi coprifuoco praticamente dalle 21 alle 6 di mattino, nessuno può circolare in quella fascia oraria? Esattamente, un coprifuoco che scatterà a Parigi, nella sua regione dell'Île-de-France e in altre metropoli dove il coronavirus si fa più sentire. Inizialmente durerà per 4 settimane, ma il presidente Macron ha detto fin da subito che l'intenzione del governo è quello di prolungarlo fino a 6 settimane. Ovviamente ci saranno delle deroghe a Parigi. Ad esempio i trasporti pubblici rimarranno in funzione seguendo il normale orario, proprio per permettere a chi lavora e a chi avrà bisogno per motivi urgenti di potersi spostare. Tra i motivi c'è ad esempio chi dovrà partire, chi avrà dei treni che arrivano partono o degli aerei che arrivano partono verso le 9, oppure altre persone che devono recarsi al lavoro o andare ad accudire dei conoscenti che hanno bisogno di cure. Senti, tra l'altro, per chiudere Danilo, c'è chi critica le misure restrittive del governo e quelle che ancora potrebbero arrivare, ma mi sembra che lì in Francia Macron abbia annunciato che per coloro che continuano a trasgredire le regole, i recidivi, c'è anche il carcere previsto? Esattamente, chi verrà colto in flagrante a circolare senza un valido motivo si beccherà una multa di 135 euro. Dopo 3 multe potrebbe scattare la prigione, 6 mesi di prigione e, se non sbaglio, una multa fino a 3.000 euro circa. Va bene, quindi faremo il punto nei prossimi giorni per capire come Parigi e le altre città che sono coinvolte riescono, insomma, a sostenere queste misure restrittive. Grazie Danilo Ceccarelli da Parigi, un abbraccio. Ciao Danilo. Buonasera. Ciao. Ora invece ritorniamo sulle cose italiane, questa storia terribile, la ricorderete, della ragazza di 18 anni, Pamela Mastropietro, una ragazza romana ritrovata a cadavere nelle campagne di Pollenza con il corpo fatto a pezzi e chiuso in 2 trolley il 31 gennaio del 2018. Oggi è arrivata la sentenza di secondo grado di cui ci parla Paola Pagnanelli, che ritrovo, giornalista del Resto del Carlino, con la quale avevamo parlato al tempo di questo terribile caso. Buonasera Paola, grazie. Buonasera, di esserci. Buonasera, ben trovati. Quindi la Corte d'Appello ha confermato l'ergastolo per il pusher nigeriano Osegale? Sì, hanno confermato in pieno la sentenza emessa in primo grado dalla Corte d'Assise di Macerata, come era stato chiesto dal Procuratore Generale. Hanno quindi respinto tutte le eccezioni sia nel merito della ricostruzione della vicenda che procedurali su alcuni vizi formali degli atti delle indagini che erano stati invece sollevati dalla difesa. Ma allora, Osegale mi sembra che ancora oggi abbia ribadito che lui non l'avrebbe uccisa, ma che siccome aveva assunto degli stupefacenti, era praticamente era morta così per arresto cardiaco e che lui l'avrebbe solo, tra virgolette, fatta a pezzi. Sì, la sua versione è sempre questa. Lui ha letto una lettera, un testo che aveva scritto, e ha ripetuto di aver incontrato Pamela ai giardini. Lei gli avrebbe chiesto di trovargli l'eroina e sarebbe andato a casa, e poi lui sarebbe uscito e quando sarebbe rientrato l'avrebbe trovata che aveva già perso i sensi ed era morta. Lui avrebbe cercato di fare qualcosa, ma vedendo che poi non c'era più niente da fare, avrebbe pensato che l'unica cosa possibile fosse quella di farla a pezzi. Avrebbe comprato anche un borsone per mettere i pezzi del corpo all'interno e portarla fuori casa, e quindi lui ha continuato a negare di averla uccisa. E anche quando poi è stata letta la sentenza, alla fine lui ha urlato: non c'è giustizia in Italia, non l'ho uccisa io, e quindi lui continua a sostenere di non averla uccisa. Però al momento le accuse appunto sono pesantissime, sono di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, anche vilipendio, sì, distruzione e occultamento di cadavere. Sì. Paola, vero? Sì, sì, le accuse sono queste e sono state tutte confermate a questo punto. Comunque la Corte ha sposato in pieno la ricostruzione che è stata fatta in primo grado. Quindi non c'è nessun altro sospettato, indagato, è l'unico considerato responsabile di questo efferato delitto? Al momento non ce ne sono altri, però è venuto fuori in questi giorni che la Procura Generale ha avocato un'indagine che era ancora pendente a carico di ignoti alla Procura di Macerata per verificare se possano esserci altri personaggi. Alla luce di alcuni elementi, dubbi che sarebbero emersi nel corso delle indagini, sui quali evidentemente la Procura Generale ha deciso che fosse opportuno fare degli approfondimenti ulteriori. Al momento però, per quello che risulta, dopo le indagini che erano state fatte anche con l'intervento del RIS e con diversi sopralluoghi fatti soprattutto nella mansarda degli orrori, dove sarebbe stata uccisa, spogliata e depezzata la povera Pamela, non c'erano tracce, impronte, segni della presenza di qualcun altro nell'appartamento se non di Osegale. Quindi per quello che è venuto fuori fino adesso non c'era modo di ipotizzare che ci fosse stato qualcun altro, se non per l'idea che è agghiacciante che quest'uomo da solo in 3 ore abbia fatto un'operazione veramente chirurgica, approfonditissima, con un lavaggio con la candeggina fino agli organi interni per cancellare tutte le tracce, quindi facendo un lavoro immenso e moltissimo accurato, come l'ha definito il medico legale Cingolani, dicendo che era stato un lavoro precisissimo, tutto da solo in così poco tempo e con questa grandissima perizia. Grazie Paola Pagnanelli, grazie ancora e grazie buon lavoro, ricordo giornalista del Resto del Carlino, ciao. Grazie. E adesso c'è tra pochissimo la viabilità, così aggiorniamo chi sta viaggiando. Non c'è la viabilità, anzi no, parte direttamente tra pochi istanti il reportage del venerdì. Non manca mai qualcuno che farnetica, così parla a voi, dà del voi, non so a chi, dice: queste sono le bestie che voi volete in Italia. C'è qualcuno che si sveglia improvvisamente dal suo letargo di tutto un intero anno e ogni tanto deve sparare qualcosa. A tra poco. Radio 24 Reportage. Vaccini anti-influenzali, prova generale anti-Covid di Rosanna Magnano. Le regioni, sulla base di una circolare del Ministero della Salute, hanno acquistato il 70% in più rispetto ai vaccini somministrati nell'anno passato. Sono numeri significativi, la campagna vaccinale si sta avviando in tutte le regioni e l'auspicio è che ci possa essere una risposta importante da parte dei cittadini nel nostro Paese. L'invito a vaccinarsi contro l'influenza arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza, perché quella di quest'anno è una campagna vaccinale diversa dalle altre, con la compresenza ingombrante dell'epidemia Covid, che spinge le amministrazioni più virtuose a immaginare modelli innovativi. Track itineranti, uso di palestre e auditorium, drive-in e tendoni riscaldati per intercettare in sicurezza una percentuale la più alta possibile delle fasce a rischio. Bambini da 6 mesi a 6 anni, anziani over 60 e fragili. Ma anche a gettare il cuore oltre l'ostacolo per tentare con l'influenza una piccola prova tecnica della vaccinazione universale che verrà contro il SARS-CoV-2. Per questo Radio 24 ha viaggiato nelle 5 regioni in prima linea sulla pandemia per fare il punto sulla gestione di questa doppia sfida, mirata a evitare sovrapposizioni tra i sintomi dell'influenza e quelli del Covid, a contenere i costi delle complicanze e a non sovraccaricare il Servizio Sanitario Nazionale. Si parte dal Veneto, che ha per il momento acquistato, con una spesa di oltre 8 milioni di euro, circa 1 milione 350 mila dosi di vaccino, un quantitativo superiore di oltre il 60% rispetto alle 800 mila dosi acquistate lo scorso anno. La gara è ancora aperta per eventuali nuovi ordini e quindi garantita la copertura della fascia a rischio, ma anche di lavoratori esposti particolarmente al contagio, secondo le priorità indicate dai piani pandemici internazionali. Francesca Russo, direttrice della prevenzione della Regione Veneto. Abbiamo naturalmente alzato la possibilità di vaccinarsi, una perché secondo la circolare del Ministero bisogna partire con l'offerta a partire dai 60 anni e non dai 65, quindi abbiamo 5 cohorti in più, e poi perché abbiamo previsto una percentuale di adesione maggiore. Nel Lazio, che ha acquistato 2,4 milioni di dosi, il doppio dello scorso anno, delle quali 100.000 riservate alle farmacie, il 95% delle vaccinazioni antinfluenzali è storicamente somministrato dai medici di famiglia e l'adesione è sempre stata alta. Ma quest'anno, sebbene il target richiesto al singolo medico sia di arrivare almeno al 60% dei pazienti a rischio, le previsioni sono di una richiesta molto più elevata. Pierluigi Bartoletti, medico di medicina generale e vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Roma. I colleghi non hanno risposto va bene il 60%, la stragrande maggioranza dei colleghi ha ordinato vaccini per percentuali di circa 80-90% della popolazione a rischio, e già adesso qualcuno mi sta dicendo che vorrebbero integrare, quelli che sono stati un po' più prudenti, stanno integrando le dosi di vaccino aumentando le richieste. E dopo le polemiche sulla somministrazione dei vaccini in farmacia, prevista in un'ordinanza del governatore Zingaretti, che ha trovato la netta opposizione dei camici bianchi, le dosi vendute in farmacia potrebbero essere somministrate in loco dalle USCAR, unità mobili con medici e infermieri a bordo. Ancora Bartoletti. Se io vaccino il nonno Ugo, che vaccino da 10 anni, quest'anno non avevo nessun problema, perché già so che il nonno Ugo vaccino lo può fare e non ha effetti collaterali. Diverso è se vaccino uno sconosciuto, neanche da un punto di vista del rischio e della sicurezza. Quando io dico unità mobili va bene, però unità mobile rispetto al vaccino fatto in studio è peggiorativo, non è migliorativo. Diversa la posizione dei farmacisti, che anche in prospettiva della ben più vasta vaccinazione Covid potrebbero giocare un ruolo chiave sul territorio. Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federpharma Roma. Bisogna aggirare questi ostacoli, perché in Europa sono 16 le nazioni che consentono ai farmacisti di fare vaccini, con totale sgravio di impegno sia da parte del Servizio Sanitario Nazionale e con tante facilitazioni per i cittadini. La Campania è partita con le vaccinazioni antinfluenzali il 1 ottobre, dopo aver acquistato celermente e in anticipo sulle altre regioni 1,8 milioni di dosi, aumentando del 20% i quantitativi rispetto allo scorso anno. La prima linea è stata quella degli operatori sanitari e dei lavoratori delle residenze sociosanitarie per gli anziani, vaccinati all'interno delle strutture. Ma la priorità è stata quella di evitare assembramenti negli studi medici, partendo con largo anticipo per arrivare a coprire anche una quota di cittadini non a rischio, grazie a un monitoraggio informatico delle vaccinazioni effettuate. Enrico Coscioni, consigliere per la sanità del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e presidente Agenas. Saranno i medici medicina generale, i pediatri di libera scelta e l'ARL a fare gran parte del lavoro rispetto alle fasce a rischio prima e poi anche per equivalente adiuvante quelli con patologie over 75. E poi ci saranno anche dei bus che circoleranno per le grandi piazze delle città per favorire ulteriori vaccinazioni. Entro fine ottobre abbiamo già il primo report di quanti saranno stati vaccinati. Abbiamo una piattaforma informatica in Campania che si chiama GEVA, e entro novembre riusciremo a dare anche una quantità significativa di vaccini alle farmacie. Anche in Sicilia, dove sono disponibili 1,5 milioni di dosi acquistate dalla regione, il 60% in più rispetto all'anno scorso, la somministrazione avviene per lo più negli studi dei medici di famiglia, ma le operazioni procedono a singhiozzo. Luigi Galvano, medico di medicina generale a Palermo e segretario regionale FIMG. Non è un problema di approvvigionamento, è un problema di stoccaggio. Loro probabilmente, secondo me, non hanno frigoriferi a sufficienza. Per esempio a Palermo, che fa un quarto della popolazione residente della Sicilia, ne stanno dando 200 a medico, quando il fabbisogno di un medico medio massimalista è almeno di 500 vaccini. Negli studi medici la necessità di distanziare i pazienti rallenta le operazioni e mancano iniziative alternative. Ancora Galvano. Il punto è cercare di fare un qualcosa di diverso in cui si mettevano insieme una serie di sinergie diverse, in modo che la gente, se piove, non sta in mezzo alla strada. In Veneto so che stanno perdendo anche tendoni riscaldati nella protezione civile. Allora, facendo una cosa del genere, potrei anche fare una prova generale per quella che sarà la vaccinazione universale anti-Covid, dove là non puoi scherzare. La gente ti mangia se tu perdi tempo a vaccinarli una volta c'è il vaccino. E questo non è stato fatto, se non in qualche sparutissimo caso, per qualche, diciamo, sensibilità locale di qualcuno. In Lombardia l'approvvigionamento tardivo e a caro prezzo delle dosi di vaccino è oggetto di indagine della Procura di Milano e i medici si preparano a una campagna vaccinale con diverse incertezze sia sull'effettiva copertura delle fasce a rischio sia sull'eventuale acquisto in farmacia. Paola Pedrini, medico di famiglia a Bergamo e segretario generale FIMG Lombardia. Non abbiamo ancora notizie chiare sul quantitativo di vaccinazioni che saranno disponibili. Potremo ordinarle dal 19 ottobre, vari ordini scaglionati purtroppo, e abbiamo notizia solo delle prime 100 dosi. La comunicazione di regione dice che da metà novembre avremo anche le ulteriori dosi e metà novembre è anche abbastanza inoltrata come data per vaccinare. If I ever were to... You I'd surely lose myself. Everything I have found, dear, I'm not found by myself. Per quanto ciascuna regione potrà essere efficiente, non sarà in ogni caso possibile vaccinare la gran parte della popolazione attiva. Ma se è vero che l'emergenza Covid ha spinto i cittadini a focalizzare l'attenzione come mai prima d'ora sulla prevenzione vaccinale, è vero anche che possiamo imparare dall'emisfero sud del mondo, dove l'inverno è quasi terminato e dove l'uso di mascherine, l'igiene delle mani finalmente adottata da molti e il distanziamento sociale hanno ridotto l'impatto della normale influenza con un'incidenza inferiore rispetto agli anni passati. A riferirlo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi se le persone a rischio è bene che si possano vaccinare al più presto, per tutti gli altri lo scudo che vale per il Covid ripara in buona misura anche dall'influenza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Perché tornerà, vero Paolo Corazzon di Trevi Meteo? Torna. Buonasera Roberta. Sì, guarda, fine settimana all'insegna, non dico proprio del tempo bello, ma comunque di un netto miglioramento. Il nord Italia vedrà proprio il sole, quindi dalle nostre parti la situazione è buona, magari temperature un po' basse al primo mattino, però poi di giorno ci sarà bene. Il centro-sud è ancora un pochino di variabilità, ma con fenomeni sempre meno presenti, qualche piovasco domani sul Tirreno, domenica al sud, ma in forma isolata, quindi in realtà anche al centro-sud il sole ci sarà. E come? e anche lì con temperature diurne accettabili. Quindi guarda, un weekend discreto, dai, mettiamola lì, dopo gli ultimi questo andrà abbastanza bene. Quindi creme solari a go go? Adesso esageriamo, perché al mattino siamo sui 6-7 gradi, voglio dire. Però no, ti ripeto, sarà un weekend almeno luminoso, almeno questo, dai. Luminoso come il nostro Paolo Corazzon, che è un portatore sano di sole, per fortuna, anche quando piove, con i temporali, bufera, lui ha sempre... Cosa mangi tu, Paolo? Così per No, guarda, nulla di speciale, sono così di mio. E ti aggiungo, allora, a questo punto, perché la ciliegia sulla torta, che anche inizio la prossima settimana sarà l'insegna del bel tempo, dai, ce la capiamo. Che buone notizie, chiudiamo in bellezza. Grazie al nostro Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia, in ogni buon caso. Buon tempo a tutti, ciao. Ciao Paolo. Bene, su queste belle notizie direi che ci riaggiorniamo molto brevemente alle 22. Martina e oltre 500.000 di aziende professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.